È il momento dell'esperimento. Anche tu puoi piegare i metalli. Assumi una posizione comoda. Rilassati. Distenditi. Tieni le chiavi tra le mani senza stringerle. Tra poco accadrà dentro di te e nelle tue mani qualcosa di inspiegabile, ma perfettamente naturale. Pensa che la tua mente ha immense possibilità. Vi sono racchiuse forze nascoste grandissime. Ora apri la diga della tua mente, lascia che prorompa tutta l'energia che vi è contenuta, perché tu lo vuoi. Tra poco sentirai tra le mani una lieve sensazione di calore. Un calore piacevole arriverà alle tue dita. Tieni le chiavi tra le mani, leggermente. Tra poco si piegheranno. Ora io prendo una chiave, la sfiorerò, e quando comincerà a piegarsi la mia chiave, altre chiavi si piegheranno, come è già accaduto a migliaia di persone. Tieni sempre le chiavi tra le mani, oppure, se ne senti la necessità, prendine una e sfiorala delicatamente con le dita. Sto sfiorando la chiave con la punta delle dita. La mia mente e la tua mente modificheranno la struttura del metallo. Calore nelle tue mani. Calore nelle tue mani. Ecco, la mia chiave comincia a piegarsi, come fosse gomma. Il metallo tra le dita è molle come cera. Si piega. Piegati. Piegati. Continua a piegarti, a piegarti. Osserva le tue chiavi attentamente. Non è importante quanto la chiave si è piegata, ma se si è piegata, sia pure di poco. So che non a tutti è riuscita questa prova, ma non importa, perché chi non ha ancora ottenuto un risultato positivo potrà tentare un'altra volta, quando si sentirà maggiormente disposto, o quando l'ambiente esterno si dimostrerà più adatto. Perché tutti possiamo riuscire, anche se per qualcuno è più facile ed altri incontrano maggiori difficoltà, anche se l'esperimento non ci riesce tutte le volte che lo desideriamo.